24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Lei ha quasi 84 anni. Riesce ancora a comandare bene, no? Io faccio parte della maschia gioventù dei miei tempi. Il Vangelo secondo Gentilini dice: ordine, disciplina, rispetto delle leggi. Prima noi e dopo gli altri. Davvero sceriffo, insomma. Davvero sceriffo. Lo sceriffo d'Italia numero uno sono io. Eccolo lì, non ce l'ha fatta neanche Giancarlo Gentilini, lo sceriffo d'Italia numero uno. Terremoto alle amministrative, insomma, non c'è più Gentilini a Treviso, la Lega, a Roma è finita l'era Alemanno, c'è Marino. Tutti i giornali titolano questo 16-0, non c'è più né Scajola né gli scaioliani, e oggi Scajola dice basta, è tutto finito, non, la mia esperienza politica è finita. In un'intervista anche drammatica al Corriere della Sera dice: mi scavai la gogna mediatica da solo con quella mia insaputa, la casa al Colosseo, cambia tutto. Cari italiani, benvenuti, questo è 24 mattino. C'è Alessandro Longoni oggi che sgambetta qui per la redazione dalle 5:30. C'è il nostro alpino Peter Bescapè che ieri ha festeggiato ovviamente il compleanno degnamente, quindi è così, bombardini a raffica. Ed è qua però puntuale in regia, e c'è il nostro Parlamento allora che può aprire. Ah, si apra il Parlamento come sempre. Nicole Minetti è sempre qui. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, vabbè, continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Prossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Vabbè, se ne farà una ragione anche questa signora. Io voglio salutare intanto un ritorno incredibile, graditissimo, lontanissimo anche, Mario Adinolfi. Buongiorno, buonanotte, che ti devo dire? Buongiorno Milan, strozzati col caffè della Minetti. Strozza, che brutto cretino d'un Milan. Ah, brutto cretino. Esatto. Via. Attenzione, intanto prima teniamo un po' di mistero. Saluto Massimo De Manzoni, il vice direttore di Libero. Buongiorno e ben ritrovato, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Sai De Manzoni dov'è Adinolfi? Mentre noi siamo qui. Adinolfi, a Las Vegas, dove sei? A Las Vegas. Sono a Las Vegas, alla Trump Tower di Las Vegas. Mamma mia, ragazzi, mettici un attimo le carte, sì, un attimo. Ma poi si è sposato, ma è vera sta cosa? Eh certo, c'è mia moglie davanti che ha appena cucinato una cena italiana, finalmente, dopo tanti giorni. Ho dovuto sposarla per convincerla. Proprio mi vado a sposare a Las Vegas. Sapete, una di quelle cose che uno nella vita a un certo punto si mette in testa. E ti sei sposato a Las Vegas, questo è. Ma sì, io sono, in realtà qui vengo tutti gli anni, parecchie volte, insomma. Sono quasi un cittadino onorario, quindi, Vabbè, allora dovendo scegliere meglio Las Vegas, molto rapida e senza parenti, che è perfetto. Allora ci devi spiegare da Las Vegas, perché ieri hai scritto che speravi vincesse Alemanno, cioè da Mario Adinolfi. Ho scritto che speravo vincesse Alemanno, e sinceramente pensavo che vincesse Alemanno, se devo essere completamente sincero, forse da lontano non avevo il polso della città, perché speravo che il PD saltasse il gruppo dirigente, finalmente, diciamo, dopo i disastri delle elezioni politiche. Ho paura che questo risultato, ovviamente straordinario per il centrosinistra, rinsalderà gli equilibri esistenti, diciamo così. Questa cosa francamente non mi entusiasma, insomma. La spallata di febbraio era servita a mandare giù solo il povero Bersani. Oggi in realtà tutti i gruppi che io conosco bene, le conventicole del PD, si riaggregano dicendo: vedete, funzioniamo ancora. E questa cosa mi... E poi oltretutto, siccome il sindaco di Roma sarà Goffredo Bettini, gli faccio gli auguri via Radio 24. Ah, attenzione, il vero sindaco di Roma, hai capito Massimo? Torna a essere Goffredo Bettini. Torna a essere Goffredo Bettini. Allora, insomma, Adinolfi dice, sperava in una nella mazzata sulla nuca per far stramazzare direttamente tutto la classe dirigente del PD. Invece questa vittoria di Marino, no, invigorirà alcune persone. E poi c'è, dall'altra parte, per quante mazzate prendono, la classe dirigente non cambia mai comunque, quindi rimaniamo esattamente come eravamo. Rimane tutto così. Però questa Goffredo Bettini, il vero sindaco di Roma, sì, un po' pochettino è già stata scritta, nel senso che Marino non è, non, non è radicato in Roma, Bettini, Bettini sì. Ma non è neanche romano. Sì. Era stato un po' assente delle ultime vicende politiche, è tornato e ha vinto manovrando i suoi figli. Sì, sì, no. Però Marino debba ringraziare Bettini, non ci sono. Ma questo certo, Dinolfi dice non è romano, oltre ad Alemanno. No, chiaro, anche Alemanno però Dinolfi era nato a è nato a Bari. Sì, sì, sì, si è sempre detto non è un vero romano. Alemanno era il leader della destra romana da tantissimi anni. Sì, questo sì. Fin troppi, diciamo così, tant'è che avevamo avuto scene tremende il giorno delle elezioni di Alemanno, perché la destra romana aveva eletto il suo capo al Campidoglio, vi ricordate i saluti romani? Certo. Scene francamente, dal mio punto di vista, ovviamente insostenibili. Ignazio Marino, non dico nulla di nuovo, cioè è un'invenzione di Goffredo Bettini. Cioè, Goffredo Bettini un giorno, alle primarie 2009, quella in cui Franceschini era candidato segretario, per indebolire la possibilità di Franceschini di farcela, inventò la famosa terza candidatura e inventò la candidatura Ignazio Marino. Cioè, che sa di Roma, secondo te, Marino? Il candidato che prese un 12%, che tolse di fatto le possibilità a Franceschini di essere confermato segretario, e da allora è sempre stato, anche nella genesi della candidatura romana, diciamo così, uno degli strumenti a disposizione del vero capo della sinistra di Roma, che da tantissimo tempo è Bettini. Ma secondo te, quindi, cosa al governo con il caro Goffredo. Cosa sa di Roma, secondo te, Adinolfi, Ignazio Marino? Non sa che Klose gioca nella Lazio, questo abbiamo capito. Insomma, che a Roma è grave, non sapere. A Roma è grave. Marino è una persona bravissima. Io lo conosco, è stato un collega parlamentare, quindi figuriamoci, è persona stimabilissima, ma secondo me faceva molto meglio un altro mestiere. In questo mestiere qui è sempre stata una variabile dipendente di altri, e a mio avviso alla guida del Campidoglio avere una variabile dipendente è un problema, perché il Campidoglio è una macchina complicatissima, forse peggio di qualsiasi ministero. È una macchina con 25.000 dipendenti, l'ACEA, le municipalizzate, interessi fortissimi, pensate solo a Caltagirone, che adesso si mangia le mani perché sul suo giornale per 2-3 volte ha fatto articoli di attacchi durissimo a Marino durante la campagna elettorale prima del primo turno, poi ha cercato di recuperare. Oggi si trova con un asettico: la vittoria di Marino, Roma, la vittoria di Marino. Asettico. No, i poteri a Roma sono una cosa strana, insomma, una cosa che bisogna essere romani per capirli. Marino non è romano. Non è romano. De Manzoni, quindi facciamo tanti auguri ovviamente a Bettini e a Marino a sto punto come sindaco. De Manzoni, una cosa non l'ho capita. Enrico Letta ieri ha detto questo risultato rafforza le larghe intese, cioè qualunque cosa succede in Italia Enrico Letta dice questo rafforza le larghe intese. Detto per inciso, Marino non ha neanche votato la fiducia a Enrico Letta quando stava ancora al Parlamento, non gli ha neanche votato la fiducia, però tutto rafforza le larghe intese. Perché, De Manzoni, tutto rafforza le larghe intese? Perché la grande paura di Letta è che il suo partito gli tolga la seggiola di sotto il sedere, e se il partito perdeva queste fibrillazioni sarebbero state più forti, mentre invece con una vittoria così schiacciante oggettivamente in tutta Italia, perché al di là di Roma poi hanno vinto dappertutto, probabilmente per qualche tempo le acque si placano e da quel partito non gli arriva più nessun problema. Dall'altra parte il PDL, che pure qualche sofferenza ce l'ha anche nel sostenere Letta, ne ha di meno del PD, l'abbiamo visto in questo periodo. E poi, dopo una batosta del genere, correre alle urne forse non è la cosa giusta. Poi il paradosso è che i sondaggi nazionali continuano a dare il PDL in crescita. Ma sì, ma io questo non lo so, i sondaggi poi si vedrà. Il PDL però si è scoperto ieri per la 450esima volta che il centrodestra è Silvio Berlusconi, e se non c'è Silvio Berlusconi non c'è niente. Se Berlusconi decide, e in questo momento continua a dirlo, che per lui il governo Letta va benissimo, va bene così. In questo momento così. Dormire tra due guanciali. E infatti pare che sui giornali si dica Letta pensa di scavallare ormai il 2000, almeno il 2014. In ogni caso, visto che prima Dinolfi parlava dei gesti che ci sono stati, se, alcuni saluti fascisti all'epoca quando Alemanno, e invece ieri la piazza cantava così all'elezione di Ignazio Marino. Adinolfi, a questo punto no, è arrivato fino a Las Vegas il... Sì, l'ha detto e comunque vabbè. Ovviamente Bella Ciao è un canto che penso sia un canto per tutta l'Italia. Sì, sì, no, certo, beh. Però insomma, a Roma, che cosa c'è di te? Al Piazza del Campidoglio sono stati una cosa che hanno bruciato sulla pelle, insomma, per chi ovviamente è lontano da quella storia. Insomma. No, questo c'è. Allora, sono felice di una piazza che canta Bella Ciao, No, ma questo tutta... Con tutta la mia, diciamo così, distanza politica da Marino, però sono felice per la gente del Partito Democratico che ha potuto finalmente festeggiare. Adinolfi, soprannome di Goffredo Bettini? Panzarella, è vero? No, gli mancava, cioè, no, tutti gli pizzicavano la pancia in segno d'amicizia. Questo l'abbiamo trovato così, non lo so, su Panzarella. Che deve fare? Veniva da una famiglia nobile marchigiana, nobile, i Rocchi Bettini Camerata Passionei Mazzoleni. Ma chi è? Gli attenti, è una delle persone meno raccontate giornalisticamente della storia della politica italiana e più potenti allo stesso tempo. No, ma c'è Rocchi Bettini Camerata Passionei Mazzoleni, viene dal mare praticamente, no? Quando vi ricordate? straordinario. Vabbè, sentite questo, c'è una persona che ce l'ha fatta perché è tornato sindaco a Carovigno. La notizia del giorno, diciamo la verità, è che nell'ultimo comizio si scagliava così contro il candidato opposto. Tu hai improntato sulla tua fronte il mio nome. Bravo! Mi hai Sai chi è Adinolfi? Sai chi è? Come che no, parla, lo so, che Cosimo parla Mele, Cosimo Mele, che parla come Cettola qualunque, è tornato. Che diceva l'avversario politico: tu puzzi meno, conti meno di un pesce che puzza. Questo vabbè. Questa città volerò! Ha vinto Massimo De Manzoni, è tornato sindaco Cosimo Mele, quello della serata con un paio di escort, si vociferò anche di cocaina. C'è un processo in corso ancora, no? Sì. Penso. Poi c'è anche qua un processo in corso per Tangenti, se non sbaglio. Ah, sempre per lui? No. Sì, o hanno poca memoria. Gli italiani. Lo conoscono molto bene, che è più probabile, e gli va bene così. Ha vinto. Oh, ragazzi, si è presentato, è stato votato, ha vinto. Che dobbiamo fare? Cosa dire? O non se lo ricordavano, o se lo ricordavano fin troppo bene, gli va bene così. E hanno votato. I casi sono due, non è che siano tanti. No, ma è chiaro. In entrambi i casi hanno votato, come dici tu. Ed è sindaco Carovigno in provincia di Brindisi. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi c'è la segreteria telefonica. Siamo con Mario Adinolfi da Las Vegas, neo sposo, e Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. 24 mattino. Ciao Alessandro, sono Gianfranco. Siamo stanchi, e lo sai anche tu, non ne possiamo più. Evviva colui che imbraccerà un fucile. Io sono pronto a dargli manforte. La rivoluzione cruenta, incruenta. Qui dobbiamo occupare i posti pubblici, dobbiamo fare casino, dobbiamo sfasciare. È stato chiesto di togliere qualche spicciolo alle pensioni d'oro. Allora, Dio me l'ha data, guai chi me la tocca. Io non lamento più chi ha detto questa frase. Io ho 82 anni, quindi nelle elementari. Ma questa frase vale anche per le pensioni d'oro che non si toccano? Come facciamo con quelli che hanno 200 euro di pensione al mese? Si parla tanto di crisi, in Italia non c'è lavoro, tutti perdono il lavoro, però non si fa niente per riportare tutte quelle aziende che stanno producendo in Cina tutti i prodotti, ormai siamo saturi dei prodotti cinesi. Se non riportiamo le fabbriche in Italia, il lavoro col cavolo che lo troviamo. Caro Milan, lo dico io perché la gente non va più a votare, lo dico io, perché da 30 anni che la politica è come un film, è come una telenovela, qualcosa di cui si ride alla radio quando si legge i giornali, ma poi dopo due minuti quando ritorni al tuo lavoro, alla tua attività, la politica rimane asettica, non c'è una ripercussione nel mondo pratico della vita di tutti i giorni. È da 20 anni che parlano del quoziente familiare, tu hai mai visto qualcosa? L'unica cosa che si vede nella vita di tutti i giorni sono le tasse, l'aumento della benzina, quelli sono bravissimi a farli partire dopo 3 secondi quando ci sono i problemi. Ci vogliono i forconi, ma veramente però. Che fine ha fatto il giocapiatti, quello della Cina, che era il più lucido, il più divertente, il più bravo di tutti? Recuperatelo. E recuperatelo, l'appello pubblico per Alberto Forchielli. Poi il cioccapiatti sono io, non è quello della Cina, è Alberto Forchielli. Tornerà Alberto Forchielli anche ai nostri microfoni, abbiate fede. Allora, Maria Dinolfi, intanto questa conversazione viene ascoltata e trasmessa ovviamente poi da Obama. Da Obama, sì, certo. Saluti a Obama, salutiamo quindi Bettini, il sindaco di Roma, Marino, il pro-sindaco di Roma e anche Obama che ci ascolta. Ma qui Obama trema, qui vedo l'offensiva mediatica, in particolare di Fox contro il presidente, è pesantissima. Oggi tra l'altro è appena sparito da Hong Kong Snowden, sì, la talpa, sì, della CIA, sta diventando un affare estremamente pericoloso e scivoloso per la presidenza. Non l'avrei mai detto di arrivare in America e guardare tanta ostilità mediatica nei confronti di Obama. Persino il New York Times ormai non sostiene più apertamente il presidente. È una situazione molto complessa, sì. Estremamente interessante giornalisticamente. Mi dispiace che in Italia, molto presi a divertirci con il voto a Catania, non ci siamo ancora bene accorti. No, ma è una cosa clamorosa. I giornali oggi raccontano De Manzoni di questo Snowden. Questo, secondo te, perché l'avrà fatto questo Snowden? No? Ora ci si divide: emblema della libertà vera o traditore dell'America? Confidare tutto, adesso è sparito. Stava in un albergo a Hong Kong, adesso non si sa più dove sia. Ma il fatto appunto che sia riapparso Hong Kong, che sia sotto un po' sotto la protezione del governo cinese, così pare, perlomeno che fosse anche seguito e protetto, qualche sospetto lo mette sulle vere motivazioni. Uno spione. Qualcosa ti fa sospettare. Dopodiché i fatti rimangono. Rimane il fatto anche che si sorprende solo chi vuole sorprendersi, perché che Obama poi a parole abbia detto tante cose, ma che nei fatti abbia continuato una politica molto dura nei confronti della guerra al terrorismo, che non abbia chiuso Guantanamo come aveva promesso, che abbia continuato un po' la politica di Bush almeno su questo filone è molto importante, era notte. Io non sono molto granché meravigliato del fatto, anche perché poi la domanda è a cosa possiamo rinunciare, no Mario, a cosa dobbiamo e possiamo rinunciare in termini di libertà in nome di una sicurezza tra virgolette superiore. Questa è la grande domanda che porta dritti al Grande Fratello, grande diciamo così omaggio a George Orwell, che 65 anni fa, non so come, infatti, fonte di ispirazione, è riuscito a raccontare in maniera impressionante, e ovviamente ancora in fase metaforica e diciamo è tragica, però insomma, veramente se rileggiamo le pagine di Orwell è incredibile, effettivamente. È veramente incredibile. 65 anni fa lui ha colto il dramma della nostra contemporaneità. Dice Massimo De Manzoni, conosceva l'uomo, no? Conosceva le persone. Conosceva i comunisti, soprattutto. I comunisti, comunisti. Orwell per quello l'aveva fatto. Ma siamo in America, però questo è d'America. Ma non mica fatti ragazzi, Orwell. Lui l'aveva fatto perché aveva visto nascere la cosa incredibile è che questa cosa succede nella società più liberale del pianeta, insomma. Allora Mario, ti dobbiamo lasciare, cosa mangi per cena? Tutto pronto? Ah sì, una splendida fettuccina al ragù alla Trump Tower di Las Vegas. Fantastico. Sei riuscito a farci venire l'acquolina in bocca alle 6.54 qui in Italia. Grazie a Mario Dinolfi da Las Vegas e a Massimo De Manzoni su Libero che oggi titola Mortacci. E ovviamente c'è Alemanno. Ci sentiamo proprio per la rassegna stampa dopo il giornale a Radio delle 7.

come si dice, accelera sulle riforme. A furia di accelerare rischiamo di schiantarci contro un muro. In realtà c'è sempre un'accelerazione, ma non si vede mai niente di concreto. Però, insomma, pare che adesso nel Consiglio dei Ministri di venerdì il pacchetto semplificazioni su burocrazia e sviluppo possa portare a qualcosa di concreto. Staremo a vedere, anche perché di burocrazia si può morire, come la tragica storia, e qui è la cronaca di Ercolano, che tratteremo anche alle 8.15, ha dimostrato, di questo fioraio che viene immortalato in tutte le foto dei giornali poco prima che si dia fuoco e si butti giù dal balcone del municipio di Ercolano, dal balcone della stanza del sindaco. Suicida per la burocrazia, è rivolta, così titola il giornale a pagina 9 con Stefano Zurlo. A Ercolano un fiorista si dà fuoco in comune, si getta dalla finestra e con le urla poi assassini nei confronti degli esponenti del municipio. Si dà fuoco in comune per un permesso negato, anche l'articolo di Repubblica con Concita Sannino a pagina 21. È davvero possibile, è davvero così, cioè non si arriva a questi gesti perché non si crede, non si pensa che le istituzioni possano davvero più risolvere la situazione. È uno stesso riflesso, è uno stesso aspetto del motivo per cui probabilmente la gente non va più a votare, come si è dedotto anche da queste ultime amministrative. Perché allora questa mancanza di fiducia totale nei confronti delle istituzioni, nei confronti della politica? Di questo parleremo alle 8.15 dopo il giornale radio. Vi lascio solo con la bella notizia per Angela Ahrens. Voi dite chi cavolo è? Angela Ahrens, della City, manager, CEO, capo di Burberry. È il manager, o meglio la manager, donna più pagata della City. Quanto guadagna? 20 milioni di euros, 20 milioni di euro, la manager più pagata della City. Gli uomini tutti dietro, la prima è lei. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8 e 18 minuti in punto. Allora, cari ascoltatori, qua nella nostra segreteria telefonica, quella che mandiamo in onda alle 6.45 ogni giorno, insomma, abbondano sempre più i messaggi di persone che sono totalmente sfiduciate, persone che non hanno fiducia, o meglio persone che credono che le istituzioni non siano più in grado di risolvere i problemi di tutti i giorni, non ci sia alcun sindaco, alcun politico, alcun rappresentante di coloro che possono decidere, che possano risolvere i problemi concreti di tutti i giorni. Non lo so se sia davvero così, vi do lo spaccato della fotografia, del numero di persone sempre crescente che ci confessano questa sfiducia. E quando uno perde qualsiasi tipo di fiducia nelle istituzioni, può succedere anche quello che è successo ieri a Ercolano, in provincia di Napoli, dove Antonio Formicola, commerciante, fioraio, è andato nella sede del municipio e si è dato fuoco e si è buttato dal balcone dell'ufficio del sindaco, suicidandosi così, perché si lamentava per un permesso che da 2 anni non arrivava. Oggi i giornali titolano "Si può morire di burocrazia". Se volete una sfiducia, un segnale di sfiducia crescente nei confronti anche della politica, il fatto che per esempio a Roma un cittadino su due non è andato a votare, più di un cittadino su due non è andato a votare neanche per la scelta del sindaco. Allora è questo che vogliamo capire oggi: perché, cari italiani, c'è questa sfiducia totale o crescente nei confronti per esempio della politica? 800 24 00 24 il numero per intervenire in diretta. Con noi c'è Piero Ostellino, che saluto, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, Ostellino, buongiorno. Editorialista del Corriere della Sera. Ostellino, io vorrei partire proprio da Ercolano, perché ci ascolta, e saluto il sindaco di Ercolano, Vincenzo Strazzullo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei lo sa che qualcuno, per la verità pochi, hanno anche srotolato questo striscione, hanno urlato qualcuno assassini nei confronti, proprio urlando verso il municipio. Lei cosa prova di fronte a queste urla? Allora, intanto io vorrei fare delle precisazioni, colgo l'occasione per dire che non è successo questo nella stanza del sindaco, ma alla casa comunale, non nella mia stanza. Sì. Io non ero ancora arrivato al comune. Antonio è la persona che io conosco dall'infanzia e che di solito, quando aveva necessità di parlare con me, aspettava nella mia segreteria e al mio arrivo, e nel momento in cui arrivava, insomma, di solito si era soliti pigliare il caffè assieme e scambiare pure qualche quattro parole. Quindi ci tengo a dire questo, perché molte imprecisazioni Se sono state fatte su questa, sì, su questa cosa. Vabbè, questo è giusto che lei, diciamo, lo precisi. È giusto che debba specificare queste cose. È chiaro, io provo un profondo dolore per quello che è successo. Non avrei mai aspettato che un uomo così mite, insomma, un burbero buono, come io di solito gli dicevo, potesse arrivare ad un gesto. Però simile. Questo sì, sindaco, però quelle urla hanno colpito molto anche quello striscione. Beh, sindaco assassino. Che siano dettate solo dalla rabbia del momento e di questo episodio così grave che chiaramente colpisce l'intera comunità e che dà delle reazioni che possono essere anche inconsulte come queste qua, perché gridare assassini, insomma, a chi fa il medico e a chi ritiene che la vita sia un bene primario rispetto a tutte le altre cose, insomma. Questo sì, sindaco, lei non crede che non leggo in questo una personalizzazione sulla sua figura, ma sul volere urlare verso un'istituzione perché si dice è morto di burocrazia perché da 2 anni aspettava. No, assolutamente no, e anche su questo deve essere fatto un po' di chiarezza. Antonio aveva fatto una richiesta di occupazione di suolo pubblico nello spazio antistante il proprio negozio. Aveva inoltrato una regolare richiesta, verifica fatta dalla polizia municipale, ci si era resi conto che l'occupazione del suolo pubblico avrebbe assolutamente ostacolato il flusso pedonale, per cui per il codice della strada non poteva essere assecondato questo tipo di richiesta. Ciò nonostante, Antonio riteneva che fosse essenziale per la sua attività di fioraio l'esposizione di piante all'esterno del negozio, per cui si stava studiando un pochettino quale poteva essere il modo per dare questo tipo di concessione. Da questo, da quanto andava avanti, sindaco? Da 2 anni? Ma io dico almeno un 5-6 mesi, non di più. 5-6 mesi. L'unico modo per poter risolvere il problema era quello di ripristinare il marciapiede là dove era stato fatto uno stallo per la sosta delle auto. Questo avrebbe dato le giuste distanze per poter dare il suo. No, ma è chiaro, ma poi per carità, io poi quando uno si spinge a fare. Io ho sentito dire morte di burocrazia. Questi sono i titoli su molti giornali. Assolutamente ingannevoli. Sono titoli ingannevoli. No, ma sindaco, aspetti, si fermi un attimo. Io dico sempre che quando ci sono questo tipo di gesti, purtroppo non è il primo che vediamo in Italia, nessuno poi più del protagonista dei gesti può sapere davvero la motivazione che lo spinge a fare queste cose. Certo, lo si derubricherà e vorrei coinvolgere qui anche Piero Stellino, lo si derubricherà un gesto di magari un matto, di un esasperato, di una persona che aveva altri tipi di problemi. Il dato di fatto, Piero Stellino, è che, dal quale sono voluto partire, è che la sfiducia che poi si manifesta in varie forme nei confronti dell'istituzione, in questo caso il Comune, è una sfiducia crescente degli italiani. Le chiedo perché, secondo lei, e se anche lei ha notato questa cosa. Beh, innanzitutto in questo caso mi pare che ci fosse un eccesso di aspettative da parte del povero signore che si è suicidato nei confronti della pubblica amministrazione. E quindi questo eccesso di aspettativa, cioè questo eccesso di dipendenza per un fatto tra l'altro abbastanza banale come quello di un posteggio, aveva creato inevitabilmente una delusione forte soltanto per il fatto che la pubblica amministrazione tardava a realizzare questa aspettativa. E quindi io piuttosto che caricare la pubblica amministrazione, cioè la burocrazia che assassina una persona, direi piuttosto che c'è un eccesso di presenza della pubblica amministrazione nella vita del cittadino, per cui molti cittadini caricano la pubblica amministrazione di un eccesso di aspettative. Poiché la pubblica amministrazione non è mai rapidissima nelle sue decisioni, è sufficiente che la pubblica amministrazione ci metta un po' più di tempo del necessario o del normale per concedere questa benedetta licenza, che l'eccesso di aspettativa si trasforma in una delusione e quindi una convinzione di essere vittima della burocrazia. Cioè, se ci fosse meno burocrazia nei confronti del cittadino, il cittadino avrebbe meno aspettative nei confronti dello Stato, della pubblica amministrazione, e quindi soffrirebbe di meno traumi, di meno delusione se questo non avviene o non avviene nei tempi. Una maggiore libertà, però ci diceva il sindaco Ostellino che questa era una pratica che non poteva essere evasa, cioè era un qualcosa che dal punto di vista del codice della strada non poteva, sarebbe stata una violazione della legge concedere ciò che quest'uomo chiedeva. Ma infatti la tendenza dell'italiano medio è proprio questa, quella di chiedere troppo alla pubblica amministrazione, di aspettarsi troppo dalla pubblica amministrazione. Però d'altra parte questo è dovuto anche al fatto che lo Stato invade molto la nostra privacy, la nostra vita, la vita di quotidiana di ciascuno di noi. Cioè soltanto nel lessico italiano c'è la parola licenza. La parola licenza presuppone la presenza di un sovrano che concede al cittadino alle volte di superare la legge perché il sovrano nei confronti del cittadino ha un atteggiamento di benevolenza. Mm. Ecco, se noi cominciassimo a eliminare l'idea della licenza o eliminassimo addirittura le licenze, che erano tipiche dei paesi governati da un potere assoluto, cioè il sovrano faceva quello che gli pareva e quindi concedeva ad alcuni cittadini delle licenze che andavano oltre la legge. Sì. Se noi abolissimo questo rapporto di puramente burocratico e assolutamente poco democratico tra lo Stato e il cittadino, si creerebbero meno aspettative e quindi meno delusioni. Sindaco, io le devo dire, ci sono altre critiche da parte di alcuni familiari a dire, per esempio, visto che lei dice lo conosceva fin da bambino, lui sì. Collaborava molto anche gratuitamente, mi risulta, con il comune per le varie sì. Iniziative, dava i fiori, allestiva i palchi. Ieri vi hanno accusato di essere un pochino scomparsi, cioè perché per esempio lei non è arrivato lì, non ha tranquillizzato la persona, c'è stato anche un rischio che la situazione degenerasse ieri. Guardi, è stata una cosa così rapida, io sono stato chiamato nel momento in cui Antonio ha minacciato di darsi fuoco. Io ho chiesto di avvisare subito le forze dell'ordine e di cercare di estraderlo da questo gesto, ma nel giro di una decina di minuti si è consumato l'evento, per cui io non ho avuto il tempo materiale di raggiungerlo, anzi le dirò che l'unico mio cruccio è quello di non essere stato presente al comune, insomma, nel momento in cui è arrivato Antonio, che ripeto di solito era solito aspettarmi, insomma, era solito aspettare che io arrivassi per parlare con me. Però le contestano anche il fatto di non essersi, non so, di non avere. Lei ha sentito i familiari, la famiglia, ha parlato io dopo. Non ho avuto ancora modo di sentire. Perché non è se non di sentire ancora i figli, insomma, del quale ho grosso rispetto, insomma, e sono vicini al dolore che provano in questo momento, perché la perdita di un genitore, insomma, è chiaro, con un evento sì. Così tragico. Però mi perdoni, sindaco, non vogliamo entrare nella sua agenda, diciamo, quotidiana, ma come mai? Cioè, questo è successo tra l'altro nel comune, voglio dire, nella sua casa, diciamo così, nella casa dei cittadini, come mai lei non ha ancora avuto modo ieri di non sono riuscito a creare il contatto con i figli ed è una cosa che conto di fare oggi, chiaramente, insomma. Mm. Anche perché credo che i figli sapessero il tipo di rapporto sì. Che c'era tra me e il padre, insomma, e l'affetto che nutrivo per questa persona, che è una persona mite e che nessuno di quelli che lo conoscono si sarebbe mai aspettato un gesto del genere. È vero, l'ultima cosa che anche le forze dell'ordine, vista la situazione, le hanno sconsigliato, insomma, di... Anche questo, chiaramente, perché c'era un clima, insomma, di grossa tensione e quindi per evitare che ci potessero essere altri tipi di incidenti. Mm. In ogni caso, proclamerà il lutto cittadino? È già stato proclamato? Cioè come? No, questa è una cosa che vedremo, non ho avuto ancora modo di confrontarmi con il Consiglio Comunale, insomma, in questi momenti, ma il lutto della nostra comunità di fatto già c'è per un evento così tragico. No, ma questo non c'è dubbio. Sindaco, io intanto la ringrazio, il sindaco di Ercolano Vincenzo Strazzullo del Partito Democratico, grazie per essere stato con noi. Piero Ostellino, prima di andare in pubblicità, io ho voluto anche accomunare le due questioni, è un segno della sfiducia anche il fatto che gli italiani non vadano più a votare, cioè è anche questo un segno del fatto che si pensa che una persona che viene eletta lì è poi una persona che in realtà non incida praticamente su quelle che sono le problematiche che abbiamo tutti i giorni. 24 mattino. Eccoci, eccoci qui alle 8.35 minuti. Intanto proprio anche via mail Marcello mi scrive: ma come, non è che la politica non riesce a trovare delle soluzioni, la politica è il problema. Io non lo so, discutiamo anche di questo. Siamo partiti da Ercolano in provincia di Napoli, dove il sindaco ci ha raccontato anche la tragedia di Antonio Formicola, che dice il sindaco erroneamente viene dipinta dai giornali come un suicida per burocrazia. Certo, saranno altri motivi, sta di fatto che la crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni è un qualcosa che tocchiamo con mano. Con Piero Stellino, che è ancora con noi, ci ha raggiunto, lo voglio salutare, anche Luca Ricolfi. Buongiorno professor Ricolfi. Buongiorno. È un sociologo, editorialista della Stampa, tra l'altro è uscito proprio da poco con un libro che si intitola La Sfida, edito da Feltrinelli, che nasce, professor Ricolfi, proprio da io l'ho letto, dal senso di sfiducia che lei coglieva anche da parte di alcuni studenti che le dicevano: ma insomma, non può essere così pessimista, ci dia una soluzione, perché non è mica possibile che lei viene qui alle conferenze e ci racconta sempre che le cose vanno male. Allora lei, proprio la sfida è quella di cercare di capire se questo benedetto, maledetto paese ha un qualcosa per cui si può anche, una strada per la quale si può imboccare una via del ravvedimento. Intanto però le chiedo, Ricolfi, secondo lei perché c'è questa crescente sfiducia verso le istituzioni a tutti i livelli, anche per il fatto che la gente non va più a votare? Ma sa, una ragione molto semplice che non si pensa mai è il passaggio del tempo. Noi abbiamo dei problemi da molto tempo, ma questi problemi si stanno accumulando, nella Seconda Repubblica si sono probabilmente aggravati e accumulati. Ci sono delle soglie nella percezione delle persone. Fino a un certo punto si pensa che i problemi siano risolvibili e sia solo questione di tempo. Quando poi però passano così tanti anni senza che nulla accada, questo solo fattore determina un aumento della sfiducia. Poi c'è l'altro elemento che secondo me è il più importante, cioè che noi non ci siamo resi conto, anche perché i mass media non hanno fatto il loro dovere, a mio parere, che la crisi dei primi 4 anni è stata diversa dalla crisi dell'ultimo anno, cioè da quando si è insediato il governo Monti e abbiamo avuto questo numero di tasse, questa pressione fiscale molto molto aumentata, il numero di famiglie che si trovano realmente in difficoltà è raddoppiato nel giro di 12 mesi. Cioè, noi abbiamo questo indicatore che faceva l'ISAE, ora fa l'Istat, del numero di famiglie in difficoltà, cioè che a fine mese devono fare dei debiti oppure attingere i risparmi. Questo numero ha oscillato per 30 anni intorno al 10-15%, non ha mai toccato delle punte particolari. Invece nell'ultimo anno si sono... Nell'ultimo anno è passato dal 15 a quasi il 35% nel giro di un anno. Vuol dire milioni e milioni di famiglie che hanno delle gravissime difficoltà. Allora, mettendo insieme queste due cose, cioè il fatto che la politica non si dà una mossa da troppo tempo e la situazione è precipitata nell'ultimo anno, cioè noi abbiamo cominciato a gridare al lupo 5 anni fa, dopo 5 anni che i giornali gridano al lupo, non fa più notizia, invece la notizia c'è stata, la notizia è che negli ultimi 12 mesi 15 mesi ormai è stato un disastro incomparabile a quello che è successo. Certo, nei primi, cioè, in una anni. Situazione, diciamo, di declino, nell'ultimo anno il declino ha preso anche un'accelerazione mica male. Questo porta a una totale sfiducia. Non so se Ostellino, dal punto di vista proprio di commentatore, chiedo anche a lei perché la gente non va più a votare, per esempio. Ma io vorrei aggiungere un particolare alla vicenda di Ercolano per cercare di spiegare com'è il rapporto. Sì. In Italia tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Cioè, ad aggravare la situazione nel caso di Ercolano c'era anche il rapporto personale tra il signore che si è suicidato e il sindaco. E cioè, oltre che all'aspettativa nei confronti della pubblica amministrazione, si era creata un'aspettativa nei confronti della persona. Perché in una parte del nostro paese, dove la legge o i regolamenti impediscono che vengano prese certe decisioni, ricorre il rapporto personale, quello che un sociologo americano chiamava il familismo amorale, cioè il fatto che oltre alla legge ci sono anche i rapporti personali e qualche volta i rapporti personali servono anche a eludere la legge. Sì. Ecco, probabilmente il povero Antonio si è suicidato anche perché aveva un eccesso di aspettative non solo nei confronti della pubblica amministrazione, ma l'aveva nei confronti della persona. Sì, proprio perché beveva, come ci ha detto il sindaco, il caffè tutti i giorni con lui e nonostante ciò non riusciva a risolvergli questa situazione. Perché si aspettava che la persona potesse eludere la legge o il regolamento in funzione del fatto che erano amici e prendevano il caffè tutti i giorni assieme. Ecco, un'altra delle caratteristiche della cultura politica degli italiani è quella di pensare che la legge si possa anche eludere, ma la si possa eludere se si è amici di qualcuno. E non è così, nei paesi normali non è così. Se il rapporto personale prescinde dalla situazione, diciamo così, normativa, dalla legge. La legge è la legge. E quindi la legge ha il diritto di dire non si può. No, ma su questo non c'è dubbio. Certo, c'è da dire, professor Ricolfi, che adesso al di là delle conoscenze personali, noi appunto siamo partiti dal caso di Ercolano, avevamo alle 8:15 il sindaco Strazzullo per raccontarci della tragica fine di questo signore che ieri si è suicidato proprio nella casa municipale. Che paese è però, professor Ricolfi, quello in cui, combinando questi due aspetti che lei ci ha detto, ci sono sempre più famiglie che sono nel tunnel della crisi e sempre meno fiducia nei confronti delle istituzioni? Insomma, sembra un paese che è nel classico piano inclinato verso il basso. Come allora questa sfida si può vincere? Ma prima di rispondere a questo vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto Stellino. Purtroppo esiste anche un'altra faccia della medaglia dei rapporti personali, a mio parere. E cioè che talora essi sono necessari in Italia semplicemente per esercitare un diritto. Questa è una grossa complicazione. Ci sono persone che ricorrono ai rapporti personali semplicemente perché una pratica viene bloccata, semplicemente certo. Perché una coda di 3 mesi in ospedale per operarsi magari di un tumore è qualcosa che non si è disposti a sopportare. Allora il rapporto personale diventa anche una reazione in parte legittima e comprensibile alla inefficienza della pubblica amministrazione. Sul da farsi è difficile dire in una telefonata al telefono. Io nella sfida, nel mio libro, ho immaginato una sinistra e una destra che vengano sfidate da un governo che abbia il coraggio di fare quello che non abbiamo fatto in questi 20 anni. Purtroppo quello invece cui noi assistiamo non è un governo che sfida la destra e la sinistra, ma un governo che recepisce le peggiori istanze della destra e della sinistra, perché in fondo l'unica cosa su cui il nostro governo in questo momento trova d'accordo la destra e la sinistra qual è? È quella di fare più deficit, di chiedere all'Europa il permesso di fare più deficit, che non è la strada maestra. Noi abbiamo un problema enorme di sprechi nella pubblica amministrazione che bisognerebbe affrontare, con la garanzia però che i risparmi vengano usati per rafforzare lo Stato sociale. Abbiamo un enorme problema di evasione fiscale che dovremmo affrontare con la garanzia che tutto ciò che si recupera viene dato sotto forma di riduzione delle aliquote ai produttori. Sì, lei nel libro dice: cara destra, cara sinistra, prendete in pratica quelle che sono i vostri credo politici e cercate di perseguirli indipendentemente, insomma, dal voler vivacchiare, no? Invece sì, come... perché la destra e la sinistra hanno tradito i loro ideali, questa è la mia idea di fondo, cioè se la destra e la sinistra non tradissero i loro ideali, troverebbero un modo di perseguirli entrambi almeno per un certo tratto di strada. La sinistra potrebbe occuparsi di rafforzare lo Stato sociale e di difendere soprattutto i deboli anziché i già garantiti. La destra potrebbe cercare di ridurre le aliquote dando una mano effettiva all'evasione fiscale, dove è enorme, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, perché il problema dell'evasione fiscale è un problema territoriale. Ci sono territori in Italia in cui l'evasione fiscale è minore che nei virtuosi paesi europei, ci sono territori invece in cui è il doppio, il triplo, il quadruplo, è a livello greco. Ecco, queste cose una politica coraggiosa le potrebbe fare, non le sta facendo e questo a mio parere spiega perché non si va a votare, perché una delle ragioni del non voto, le ragioni possono essere opposte, possono essere che non c'è interesse per la politica oppure che ce n'è tantissimo, ma il punto è che il non voto si manifesta soprattutto quando i contendenti, la destra e la sinistra, sono percepiti come intercambiabili. Ora, questa intercambiabilità però può significare due cose. In un paese che funziona può significare che chiunque governa, governerà decentemente e io non rischio nulla, certo, se vince il mio avversario, che è quello che succede negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, eccetera, o nei paesi scandinavi. Può anche significare un'altra cosa però, che chiunque vinca non faccia nulla. Non farà nulla, come sempre. E allora perché vado a votare? No, ma questo è un po' l'atteggiamento o la percezione dell'elettore medio all'italiana. Poi ovviamente ci sono quelli che ci credono e vanno a votare assolutamente. Il traffico, però entriamo, siamo con Luca Ricolfi, Piero Stellino, anche qualche ascoltatore, ce ne sono tanti su questo tema, tra poco do loro la parola. Eccoci qui alle 8:47 minuti. Sentirei Laura dalla provincia di Alessandria che ci ha chiamato. Buongiorno Laura. Buongiorno Milan, mi fa molto piacere parlare con lei che ascolto. Comunque vengo subito al problema. Io ho un terreno edilizio con licenza edilizia acquistato anni fa e avevo pensato di metterlo a reddito facendo o interpellando una impresa costruttrice che costruisse una RSA, è una residenza per anziani. Sì. C'è molta richiesta di queste situazioni per dare. Certo, siamo una popolazione sempre più anziana. Ma solo, ecco, nonostante quello e nonostante i posti di lavoro che si sarebbero creati, sono 3 anni ormai che aspetto una risposta definitiva dal comune. Mi stanno prendendo in giro con la loro arroganza. Possiamo dire anche il comune? Parodi Ligure, senza problemi, in provincia di Alessandria. E aspetto una risposta a una lettera che ho scritto dietro loro richiesta, che ho scritto a maggio del 2012, quindi siamo a un anno, oltre un anno, sì. Ancora non ho ricevuto una risposta. Insomma, ti prendono per sfinimento, questo è… Insomma, questa è una dei racconti, Laura, la ringrazio, diciamo che sono tante, adesso non c'è ovviamente il sindaco a replicare, però è l'emblema un po' di una burocrazia che c'è. Vorrei sentire Pierluigi dalla provincia di Grosseto. Buongiorno Pierluigi. Buongiorno, io sono sindaco di un piccolo comune, quindi può rispondere di che comune? Pitigliana, provincia di Grosseto. Pitigliana. Splendido paese della Maremma. Ma le crediamo sulla fiducia, dice. Ma io vorrei riallacciarmi un po' a quello che diceva lei e a quello che diceva il professor Ricolfi, perché i sindaci vengono ormai, sono sfiduciati anche i sindaci dei cittadini, è perché noi sindaci ormai siamo abbandonati, cioè in questo vuoto totale, noi dobbiamo dare tutti i servizi, il trasporto scolastico, sentivo prima nel vostro giornale radio, edifici scolastici ormai decadenti, ebbene, ma i comuni ormai mettono solo toppe, è un grande vestito in cui si continuano a mettere toppe e alla fine resteranno solo toppe, perché lo Stato è lontano, la regione è lontana, i cittadini con chi si confrontano, la vicenda di Ercolano è emblematica, questo disgraziato da chi va dal sindaco. Ricolfi diceva la crisi ormai da 4 anni, ormai non è più una crisi globale, eccetera. Ormai tocca la carne della gente. Il mio ufficio la mattina non mi vengono a parlare di spread, di azioni che salgono, che scendono, dicono sindaco dacci un posto di lavoro, non possiamo più andare avanti. Lei in questo, lo so che è brutale la domanda, ma lei in questo gioco, perché dice i sindaci è partito a dire si sentono abbandonati, lo Stato, le istituzioni, ma anche lei è lo Stato in quel momento, si sente più dalla parte dello Stato che vede una cosa distante o più dalla parte come dire di uno che si sente abbandonato dallo Stato? Io non sono lo Stato, io sono dico così tra virgolette un poveraccio che è nella parte finale della catena, dove lo Stato a che risponde? Ai bisogni dei cittadini quotidiani? No, lo Stato c'ha il grande progetto e il sindaco che non ha strumenti, che ha il patto di stabilità, che non può spendere soldi, che non ha finanziamenti, cosa risponde ai cittadini? Risponde ai cittadini? Sì, ma lei dice giustamente la crisi, citava il professor Ricolfi gli ultimi 4 anni, ma poi l'ultimo anno, quindi gli ultimi 5 anni da 4 anni così, e poi l'ultimo anno ci ha dato questo dato impressionante per cui le famiglie che si sentono impoverite, diciamo così, sono salite da una media di 10-15%, quanto erano fino al 35%. Volete sia Ostellino Ricolfi risponde alle due interventi degli ascoltatori, ben diverse ma che riassumono bene la situazione. Ostellino. Beh, io vorrei integrare quello che diceva il mio amico Ricolfi prendendo proprio questi due esempi, e cioè è vero che molte volte il rapporto personale serve a realizzare quello che è un diritto, però purtroppo subentra spesso non solo il rapporto personale ma la corruzione, cioè in Italia per esercitare un diritto molte spesso si ricorre alla corruzione, cioè alla famosa tangente. Se la signora invece di aspettare 3 anni avesse pagato qualche tangente, probabilmente non avrebbe aspettato 3 anni. E il sindaco che si lamenta di dover rispondere ad un eccesso di domande da parte dei cittadini perché si ritiene abbandonato dallo Stato, in realtà dispone di un potere discrezionale superiore a quello che probabilmente dovrebbe avere. E quindi il sindaco in questione si lamenta, si sente oppresso dall'eccesso di domande, ed essendo probabilmente una persona onesta, anzi certamente una persona onesta, non ricorre ad un eccesso di discrezionalità per fare un favore a Tizio, al Caio, Sempronio. Però resta il fatto che è un problema culturale, cioè questo è il nostro è un paese la cui cultura politica, cioè il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e Stato, è il rapporto di terzo mondo. Cioè noi abbiamo una cultura politica del terzo mondo. Negli altri paesi di democrazia matura maggiore della nostra, il rapporto è impersonale, cioè sì, certo, sono le istituzioni. Delle leggi, ci sono delle istituzioni e fine della trasmissione. Sì, certo, non hanno un nome o cognome, o meglio, metti qualsiasi tassello, lo so che è brutta anche questa immagine, con un nome e cognome, ma è l'istituzione che funziona. Professor Ricolfi, che diciamo al sindaco di Pitigliano e anche all'ascoltatrice che riassumono in maniera opposta, se vuole, il problema di cui stiamo parlando oggi? Ma purtroppo non si può parlare di un caso particolare senza conoscerlo, per cui io cosa possa fare il sindaco di Pitigliano non ne ho la minima idea, perché non sono mai stato a Pitigliano, non ho idea di come sono messi sul patto di stabilità eccetera eccetera. Quello che posso dire però, parlando in generale, è che forse noi non ci stiamo rendendo conto di una cosa di fondo, e cioè che per parecchio tempo ancora e forse per sempre la torta delle nostre risorse non aumenterà. E questo non siamo abituati, perché l'Occidente è sempre cresciuto, al massimo ha avuto ogni tanto un rallentamento o un anno di recessione, però l'idea era che si sarebbe cresciuti per sempre e che si sarebbe usciti dalla crisi a un certo punto. Ora la gente si sta rendendo conto invece che questo potrebbe non succedere più. I sindaci, gli amministratori pubblici invece, a mio parere, non se ne stanno rendendo conto, perché se si rendessero conto che la festa è finita e la torta potrebbe non crescere più, comincerebbero finalmente a occuparsi di come questa torta viene divisa anche fra i cittadini. Vi faccio un esempio del territorio mio che conosco. Ci sono degli enti che si occupano di diritto allo studio. In via riservata mi è stato comunicato qualche anno fa che da un controllo risulta che il 30-35% degli studenti che ottengono degli sconti perché la loro condizione economica è bassa, è difficile, basano questi sconti su false certificazioni. Eh beh, un classico, ahimè. Allora, questo a Torino, sto parlando di un comune particolarmente degradato sul piano culturale. Allora, il problema a questo punto è: noi vogliamo, per dare dei servizi a coloro che ne hanno veramente bisogno e che lo meritano, occuparci anche di coloro che hanno dei servizi senza meritarlo o che hanno dei sussidi senza meritarlo? Vi faccio un altro esempio. Professore, facciamo così. Il secondo esempio purtroppo glielo devo far fare in un'altra puntata, ma io la reinvito e glielo prometto, se lei ha piacere, perché altrimenti sforo troppo. Vi ringrazio, Piero Ostellino, Luca Ricolfi, ricordo di Luca Ricolfi, La Sfida.